guai a chi trama l'iniquità, a chi progetta il male sul suo letto. Dallo spuntar del mattino lo eseguono perché è in potere delle loro mani. Essi bramano campi e se ne impadroniscono, le case e le prendono. Si impossessano così di un uomo e della sua casa, di un individuo e della sua proprietà. Per questo così dice il Signore: ecco, io tramo contro questa genia una sventura da cui non potrete sottrarre i vostri colli, né potrete marciare a testa alta perché sarà tempo di sventura. In quel giorno si comporrà su di voi una satira, si canterà un lamento e si dirà: siamo spogliati di tutto, la parte del mio popolo è misurata con la fune, né c'è chi può restituirgliela. A chi ci spoglia sono assegnati i nostri campi. Perciò non ci sarà per voi nessuno che getti la fune dopo il sorteggio nell'assemblea del Signore. Non vaticinate, essi vaticinano. Non vaticinate tali cose, l'obbrobrio non ci capiterà. Sarà forse maledetta la casa di Giacobbe? È forse venuta meno la pazienza del Signore? È forse questo il suo modo di agire? O sono forse benevole le sue parole per il suo popolo Israele? Voi contro il mio popolo vi siete levati come un nemico. Al Pacifico voi togliete il mantello, a chi cammina sicuro portate la guerra. Voi cacciate le donne del mio popolo dalle case che esse amavano. Voi togliete ai loro bambini l'onore che ho loro concesso in perpetuo. In piedi, avanti, non è qui il riposo. Per un niente voi esigete un pegno insopportabile. Se ci fosse un ispirato che proferisse la menzogna «ti profetizzo vino e birra», egli sarebbe il profeta di questo popolo. Io riunirò tutto quanto Giacobbe, raccoglierò il resto di Israele, li porrò insieme come greggio nello stazzo, come armento in mezzo al pascolo. Non avranno paura di nessuno. Davanti a loro avanza il capofila, dietro a lui esse entrano ed escono, davanti a loro avanza il loro re, il Signore. È alla loro testa.